Del nostro pensiero lineare, e allora cerchiamo l'indefinito, proiezione ortogonale dell'infinito, percorsi che ti portano all'indefinito, creano fatalmente altra dipendenza, altra dipendenza, altra dipendenza.